chiusi, ancora ci sono quelli dentro al recinto. Li hai visto? Sì. E devi stare attento in chi vieni. No, sono recettati loro. Poi siamo andati un po' di tempo, lasciamo proprio dove c'era la chiesa, capito? Scappa. Ma te dove lo sta? Iniziano di nuovo. No, ne prendimi, da rimani e prendi qua. Casino, un casino bravo. Lo so, poi tutta così prolungatamente fa del danno. Ma no, sì, perché a me te non ce la fa più. Non ce la fa più a servire, capito? Via, anche le strade, se vedi le strade sono tutte gatte. Le strade lo stesso. Io penso che tu mi disami stracolmi. Via, e beh, proviamo a fare una chiamata generale. Attenzione, 10 chi vuole entrare. Benissimo. Ma sai, poi si è scoperto che stava facendo. Io sono rimasto un paio di minuti in ascolto, poi ho spento tutto. Chi c'era quel tipo faceva la portante con quei rumori cantendo, fruscendo, cos'era? Fruscendo, se si chiude lo grabo alla vacca e frusciava. Ma abbiamo capito chi è? Ma c'è Luca, ha mandato una persona, pure poi non so se sono riusciti a scovare chi era. Sospetti ci sono. Penso di sì. Ma qua a voi non vi fa niente, neanche a Luca. L'unico che dava fastidio erano quelli tipo, come si chiama? Benito, quelli più bassi, dai. Qua arrivava abbastanza forte il segnale, 9-9-20, ma voi siete tutti superiori. Benito e Capri lo disturbavano. Capri un po' usciva, riusciva a uscire sotto, però lo disturbava. Infatti copriva Benito, l'aveva già fatto. E a Capri due la verità. Non ho capito esattamente la zona, ma a me pare zona di giù, secondo me. Non è qua... No, anche per me è zona di giù. Vabbè, si divertono così, purtroppo c'è gente che si diverte così, non ci compreso. Cosa ha una a fare una cosa del genere? Finché dice ti voglio maltrattare, mi faccio vedere e so che so guido. Sì, no, ma io quando ho sentito un po' l'andazzo, che ho visto che le cose non stavano andando però... E invece no, immediato. Ho fatto quel ritiro, sono andato a tutti. E niente, bisogna fare così, intanto cosa sta lì? O si sceglie un canale, ci dobbiamo verticare, si parla di verticare, o ci scegliamo un canale, ci aiuto, andiamo alla parte là, e tutti vanno alla parte là, capito? No, è perché, tanto è qua 10 perché non va bene. Canale centrale, pulito, non venisci, non va perché non venisci, non l'ha chiamato negli altri canali, ma nel 5 non fa. Ci puoi trovare gente che disturba, ma il 10 ce l'abbiamo da qualche anno, almeno da quando sono entrato io nel 2004 c'è sempre il 10 come canale. Sì, vabbè, ma naturalmente è importante così che non lo sentiamo i piccoli e diventa già problematica la cosa, capito? Vabbè, ma tanto se ti vogliono male ti sposti e ti vengono a presa, non so se te ne ammetti, qualche tempo fa a qualcuno ti spostavi e lo seguivano da tutte le parti. Quello che è vero, sì. Lei l'hanno fatto a Tonino di Usine, capito? Scherzi un po' pesantuccia. Insomma, non è. Per me è roba da bambini. I bambini le fanno questa cosa. E i bambini, mi pare sono anche adulti, sono anche bambini. Non so che sono adulti, ma è roba da bambini. Se uno va a carattere ti dice su chi pensa, te lo dice e ti affronta, non è che ti nascondi dietro il microfono. Sì, quello è vero, vabbè. Fatto con la Gigio. Ho fatto questo lavoretto qua, con i commutatori, ho tre commutatori attaccati. Allora ne ho due a tre posizioni e uno a due, per commutare tutti i baracchini, tutte le cose che sono attaccate. Una marea di fili, adesso me li ho tutti segnati, se no ti confondi pure, perché arrivano tre antenne, arrivano due antenne le commuto col coso, con l'accordatore, faccio antenna 1 e antenna 2, poi c'ho l'antenna, di lì faccio l'antenna direttiva e l'antenna mantova, e più c'ho la multibanda commutata con un altro commutatore. Meglio te li segni, se no succede casino la mente. Bene, siamo a bere. Ho preso questo Dioci, c'è il bellino, la GBC me l'ha fatto pagare anche poco, a tre posizioni della Lafayette, vabbè, roba Made in Taiwan, Made in Cina, sempre. Pensate alla volta della Marcucci, ce l'ho, distribuisce la Marcucci, ha fatto pagare 15 euro a tre posizioni, però se dovessi trovare uno, non dico a trovarlo perché costano un po' di soldi nuovi, ma che non ti capita in occasione, a trovarne, ne ho visto uno a sette posizioni, è spettacolare, un unico ingresso e sette uscite, così te lo metti attaccato a muro, come ha detto Claudio, e non hai nessun rompimento di scatole di niente, se no, come ha detto Pomponio, ti fai una scatoletta, ci metti un commutatore di quelli di apparati vecchi, roba militare, di quelli grossi, e ci metti tutti i piedi attaccati a pannello, si può anche costruire. Infatti si può anche costruire, quello che è vero. No, però puoi alimentare sette baracchini così o quello. Ma io ne ho tanti baracchini qua attaccati e ogni tanto bisogna farli camminare, per quello che li ho attaccati, tra ricevitori e baracchini e cose varie, qua di fronte ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 collegati, un altro che non è collegato. dovresti almeno accenderle più che altro. No, già li faccio girare ogni tanto, non c'è problema. Mi ero il pace che era un po' che non lo facevo andare e quest'altro Intec che non andava da un po' di tempo. Poi c'ho altri baracchini, però non li metto perché sennò mi bilaria troppo spazio. Capito. No, io adesso devo cercare di avvenare un microfono da tavolo, ma al mobito, il mobito Intec MB40. Vediamo come abbinare, capito? Guarda, questa radio è bellissima, secondo me hai trovato il giusto abbinamento, va benissimo, una bella radio, non è di quelle che ti stancano, nel senso fastidiose, come l'altro giorno chi ce l'aveva, che mi ha fatto il soffio, non mi ricordo chi era. Mauro. No, non Mauro, Capri, che mi faceva sotto col baracchino, cos'era, un toccaio, non so cos'era, mi entrava nelle orecchie, proprio mi faceva male alle orecchie. Questa è tranquilla, bella, pulita. Il segnale come è già arrivato? Quasi 9.40. Vabbè, siamo vicini. Sì, a Puglia. Non lo so, adesso con tutti questi collegamenti che ha giocato, se ho perso qualcosina di segnale, magari qualcosina peruzzino in ricezione per quelli più deboli l'ho preso. Che dimmi un po', invece io è tutto a posto da parte tua. Sì, vabbè, tutto a posto, segnale non l'hai perso, tutto come era prima. Tutto qui. E come arriva, a fondo scala o prima di fondo scala? Appena prima del fondo scala. Comunque io credo siamo più forti perché vabbè siamo vicino, arriva più forte Antonello Pompugno. Ah, siete voi più forti che Antonello Pompugno va a tenere le cose. Ma arriva forte, vabbè, per me è più vicino rispetto a te, arriva più forte di te. Claudio è più forte in assoluto, poi c'è Antonello e poi ci sei tu. Cappa. Ma siamo a 300 metri di distanza, io e lui. A giù mai se ti affacci ti vede l'antenna. Sì, infatti siete un di schiocco tra te e Claudio. Poi c'è coso, e Luca, secondo Claudio, cioè vabbè, parliamo dei vicini, siete voi. Quelli più lontani, Luca è quello che arriva più forte di tutti. Sì. Poi arriva bene coso, Capri 2, a me mi arriva forte. Va bene coso, come si chiama? Quello degli punti, come si chiama? Mauro. Ah, Mauro, sì, Mauro. Poi Porto Torres più o meno come Mauro arriva intorno ai 9.5, 9.10, dipende da come va. Ehi. Anche a me mi arrivano tutti bene. Chi più chi meno di segnale, l'importante la radio è che si faccia sentire. Tu invece rispetto a me lavori meglio nella zona dove va Domenico. Perché io a certi punti lo perdo a Domenico, non riesco a capire, tu lo ascolti ancora. Ma lui mi sente a me perché io già riesco forte. Però di ricezione tu sei un po' meglio di me verso lui, verso la zona dove va lui, Olbia, quelle zone lì. Perché io lo sento sino ad Andara, un pezzettino di più avanti, lo sento un pezzettino però a tratti. Sino al bivio di Andara lo ascolto discretamente. Dai. E poi mentre io vado bene per la zona di Alghero. Sì. Guarda, vabbè, considera tu c'hai palazzi, c'hai case, le proprie, capito? È giusto che sia anche così. Io sono tutto aperto, vabbè, già lo sai dove abito. Sì, infatti dico, se tu avessi un'antenna tipo come ce l'ho io alta così, con la posizione che c'è tu, anche tu danno faresti. Sì, no, ma adesso quest'estate vedo di mettere nel palo, nella sollevo, metto i tiranti e devo fare un lavoro come ti comando. Ah, diciamo che non si fanno le cose. Ricordo che sia fissata bene, deve essere un lavoro fatto una volta solo, come ho fatto io. Ci ho perso più tempo del normale, però ho fatto dei lavori studiati a tavolino, i tiranti, tutto quanto, senza economie. Tutti i connettori di qualità, cioè dal cavo al connettore a tutto il resto, sigillatura, siliconatura, eccetera, eccetera, tutto fatto a regola d'arte. Sì, è bene quello che ho fatto, tutto a regola d'arte. E sono, che senso ha? È vista sempre di molto tosto. Ha comprato 20 metri di filo grazie alle trabacque. Adesso deve tornarsi nella tenda, capito? Staccare le pelle, cambiarsi il filo, rimettere tutto casino. È brutto così. Guai se dovesse succedere a me. A fare anni 8 metri di palo più 7 metri d'antenna viene un po' male, mollare me tutti i tiranti, allora ce la vuol dire buttando luce, poi devo salire sopra la casetta del vano scale, c'è cioè un travaglio allucinante. Infatti. Perché sono del parere che mi sa che non si piatta il filo, bisogna mettere un pezzo di corrugato, capito? In modo che lo riserva dal caldo, al freddo, ai tempini, capito? No, ma quello non di tanto. Magari bisogna fare una specie di, come si chiama, di zero, dai, arrotolato, come ha detto qualcuno, per mettere l'acqua, ma se tu lo sigilli bene, io l'antenna, tutti i passaggi di acqua, tutti ho grasso vasellinato, tutto tappato bene, tutto riempito di quello, difficilmente ne entra di acqua. Sono convinto, siccome ne ho fatto altri di impianti, avevo fatto un'antenna ventina di anni fa, ne ho tolto il PL 3-4 anni fa. Tu dovevi vedere, ha pulito lucido, e parte che tu usi il saldatore, quando fai tutte le saldature, che scaldi bene, solda bene il rame, che non ci siano problemi. Puoi riempire tutto di grasso di vasellina dentro, in modo che ti faccia da impermeabilizzante. E poi, chiuso con vulcanizzante, e non andare nessun lungo. Sì. Ebbene, la protegge l'antenna, gliela dire, quando non lavori su parte bene, te la protegge sì l'antenna. Ma io tutti gli innesti della Mantova sono stati tutti puliti bene, sgrassati, poi gli ho messo il grasso vasellinato in ogni innesto, chiuso con nastro isolante e poi tutto sigillato col nastro vulcanizzante, tutto scaldato, in modo che secondo me dove si toglierà non fa incollarla, che una volta che si legano i tubi, il telescopico, se non più tutto devi fare sciannita per toglierla, non ci riesci. Tutti i coso, tutto fatto puliti dove c'è l'innesto della Mantova, i radiali, che sono radiali in vetroresina, c'hanno delle lamelle in ottone, lì ho tutte le vigate bene pulite, perché ti fanno un po' di ossidazione, rinfilato il grasso di vasellina e sigillato, tutto chiuso bene, in modo che deve essere un lavoro che deve durare. Ma sì, non deve entrare acqua, sennò non ha senso, capito? Sì, no, ma dopo l'esperienza che hai avuto con l'altra antenna, vabbè, te non ti conoscevo ancora, ma io l'antenna una settimana ce l'avevo, c'era crepato l'attacco del PL di sotto, un travaglio, quindi ho dovuto smontare tutto, ho fatto prima, io ce l'avevo amato 5, adesso ce l'ho 1. L'ho tenuto una settimana, che è andata in corto l'antenna. Io ho messo male, non me l'hanno cambiata in garanzia, alla fine me la sono dovuta ribobinare e tutto, però di lì sì che ho fatto un lavoro di lusso, e poi l'avevo data a una persona, subito dopo l'avevo conservata e l'avevo data, ma c'era una settimana di vita con l'antenna. Non si è pecciato. La tua chi te l'aveva data? Gian Maria la tua? Sì, Gian Maria l'ha venduta. Ma era nuova o usata? No, è scatola proprio nuova. No, già Emilio, attiramente ti condisci cosa avevi di una righi di forno 27, cos'è? Un bastone. Un luce di cubo. Piano piano, io ho iniziato, come ho iniziato tutto il culo, il portatilino ancora ce l'hai? No. Sì o no? No. E chi ce l'ha? Doppio ru. Ah, così. E infatti? Ma regalato o venduto gliel'hai? No, dato. Ma io ce l'ho sempre quello lì, le batterie che gli accumulatori sono un po' mezzo esauriti, ogni tanto bisogna ricaricare, ma ce l'ho un sacco di anni. Ma funziona va bene, non so se avevi una buona modulata per essere un baracchino normale, nel senso non amplificato, funziona va bene. Ho iniziato con quello, poi mi hanno regalato un amico che ce l'aveva un mese di vita, un Alan 48 nuovo, infatti ce l'ho ancora, e ho modulato per un pochettino, qualche mese. Poi Claudio mi ha buscato tramite internet, perché non ne volevo di questi baracchini, a me non mi piacciono questi veicolari. Ho detto buscami una stazione base. Me l'ha fatta buscare da internet il patch, bello, grande, enorme come apparato, ma funziona bene, c'è una bella modulazione. Poi mi aveva regalato Claudio un MB+4, ce l'ha ancora nuovo in scatola. E piano piano come ho preso il Tannen più 3, ho trovato l'abbinamento suo e decido, è una meraviglia. Sì, no, perché se trovi l'abbinamento è buono, io vedi, ho trovato l'abbinamento con questo, per esempio va alla 87 e va più che bene. Sì, no, sarà una grande, niente da dire. Poi è capitata l'occasione, dopo il patch su internet, che quello ci tengo troppo con l'apparato, vuole toccarmelo, con la base Intec, adesso ne ho due di base, uno l'ho preso prima dell'estate, però diciamo questo qua dell'Intec è probabilmente il miglior apparato che c'è in circolazione, il miglior baracchino base che puoi trovare in circolazione, completo, non gli manca niente, c'è una ricezione a livello di 440, poi in certi casi anche meglio, ho notato, c'è una ricezione, poi non ha problemi di, non c'è segnali molto furti, non satura, al contrario di altri baracchini, quando c'è un segnale fondo scala quasi tutti saturano, ti distorce la voce, questo c'è un filtro allucinante, poi c'ha tutto quello possibile e immaginabile, tutte le bande, è omologato, poi non è un baracchino di chi si dà brividi, c'ha tutto quanto, non gli manca niente. E un po' limitato di campo microfonico, ma vedi, basta metterci un microfono, e ho fatto diverse prove, non è a livello del patch col Tannen, però già si fa sentire anche lui. Positivo, sì, infatti, l'importante è che sia bene la radio, capito? Sia trasmissione che recensione. È buono. Ma c'ha tutto, c'ha il frequenzimetro, tutte le bande, come si chiama? Siccome c'è tipo computer, c'è una tastiera, commuti con questi tasti e ti fa tutte le bande. Perché questo funziona per diversi mercati europei e anche extraeuropei, cioè per dire, in altre nazioni per dire, non è come noi, i canali, 40 canali sono diversi come frequenze, li commuti e puoi fare tutto quello che vuoi. Qui c'è la banda laterale, modulometro, rosmetro, c'ha due strumenti, tutto quanto, cioè non ne manca nulla. Vabbè, l'unica cosa che non c'ha, ma non me ne ha fatto nulla, l'ecco e basta. Sì, vabbè, ma per l'ecco è una cosa che già non mi piace, non mi affido di averlo. Però quando sia completo il quadro di imparato, quello lo metti. Allora, quello l'ho preso usato, adesso non mi ricordo esattamente, ma mi sembra intorno ai 150 euro. Ma costava 600 euro mi quell'apparato. Non ce ne sono molti in giro, ma ne sono pentito, ce n'era uno a Cagliari. E siccome c'ha detto, un circuito allucinato, una ricezione da paura. Proprio non perché ce l'ho io, perché mi faccio per dire la ricezione non è niente, trasmette bene ma ricezione non è un granché, molto rumoroso, questo è silenziosissimo, si caga, io ho provato con 140, ho fatto le prove, ma neanche vicino al 140 come ricezione, proprio un altro pianeta, è molto vicino, simile al 440, per certi versi è anche meglio del 440 come ricezione, perché proprio non ti porta mondo sta appresso, c'ha dei filtri allucinanti, e poi c'ha un sacco di funzioni, ascoltare due canali in contemporanea, scansione di canali, per dire, ti ha tutti 40 canali, sono memorizzati, ti vai in giro, quando c'è una trasmissione si blocca, oppure te ne memorizzi il 10 e il 20, vuoi va solo in scansione su quei due canali lì, puoi ascoltarti i due canali, dual watch si chiama, e ti può far funzionare solo due canali, per dire, quando non c'è nessuna frequenza, ti memorizzi due canali e questo per dire, se ne va canale 20 e canale 30, e sta sempre girando fino a quando non trasmette nessuno, oppure tutti i 40 canali, ma poi c'ha un sacco di filtri e altre cose varie. KK, quando trova canale si blocca. Sì, per quello ti sto dicendo, è bello, proprio fatto, e poi è alimentato a 220 volt, c'ha quello di bello, una bella linea, tutto grigio, c'ha una linea bella, gli strumenti bianchi, il frequenzimetro digitale, anche tra i liquidi, non di quelli vici, addio, di più bello. No, è bello, sì, è molto bello. No, non perché ce l'ho io, non mi piace vantarmi le cose mie, però funziona bene. Ce n'era uno l'anno scorso, me ne sono pentito poi di non averlo preso, perché è sempre un apparato che tiene sempre a bello a velo di scorta. 100 euro lo stavamo vendendo questo a Cagliari. Siccome lo puoi anche modificare, c'è un ponticello, c'è uno schema elettrico per farlo, ma senza fare modifiche grosse, è nato per uscire 18 watt questo baracchino, c'ha, di uscita normale c'ha 4 watt, però c'è questo ponticello, perché per certi altri mercati lo puoi far funzionare un po' più forte, ti esce con 18 watt. È buono. poi il resto molto precisi gli strumenti, sono tarati proprio, non sono di Smith che arrivano a 9 più 30, sono tutti sballati, è come la testa indicatore del 440, arriva a 9 più 60 come fondo scala, è proprio perfetto, identico al 440 lì, lo strumento, vabbè è un apparecchio nuovo, questo non è vecchio, come progettazione è nuovo, non è un malattino di vecchia generazione, non ce ne sono adesso stazioni base, se tu vai e ti dico trova una stazione base da comprare non è trufi, nuova però ancora in produzione, questa è in produzione. Così funziona. Già va bene, già va bene. No, non me ne sono pentito, già funziona bene. Ok, vediamo intanto canale 10 che vuole entrare con la buonasera compagnia di Roberto e di Falchetto, meglio conosciuto come Antonio. Avanti che vuole entrare. Io mi sono 10 minuti e poi chiudo anch'io e sono stanco, la verità sono stanco. E anche io, cazzo, rimane all'ultimo, mi sono cucato presto, verso le 10, va via un sonno, mamma mia, poi la mattina me ne sveglio alle 6, chissà, cioè non riesco a fare un sonno bello come dico io, poi mi sono di nuovo addormentato alle 7 e mezza, ma come arriverà la sveglia, sennò è ma come inizio. Succede, no, io sono un orologio svizzero, a quell'ora attacca da te. Anche io sono molto preciso, anche senza la sveglia, però stamattina se non mi sveglia a coso, perché mi sono riaddormentato, ho dormito presto, mi sono precato presto perché ero un bel sonnato, perché sono uscito sabato presto, la domenica mattina mi sono andato presto, eccetera eccetera, ho avuto un recupero dopo pranzo, se io non recupero dopo pranzo mi scombussolo tutto. Ma tu finisci di sempre il ghizzo, non è così? Ma io sento, quattro e mezza sono già, voglio capirsi, in frequenza, aspetto gli amici camionisti e usiamo la chiacchierata. Cappa, ma chi c'è la mattina di quelli che trasmettono qua? Di quelli che trasmettono qua? No, c'è Gian Gigino Vulcano, che va sempre a casa, a mezza parte, poi c'è Gippone, poi c'è Mauro Romano, poi c'è Costanzo, c'è Paoletto, la Portotoro, che vanno, chi va a Udia, chi va a Odestano, chi va per esempio Gippone va a Nuoro. Gli accompagno un bel pezzo, capito? Dopo, come posso dire, Bonnana, gli accompagno vicino, addirittura quasi vicino a Macomere, qualche volta a Corso a Gigino. Niente, facciamo una chiacchierata, poi chiudo tutto, saluto e si vedono tutto ogni domani. Ma chi è quello che si fa sentire più forte, più lontano? Gigino? Gigino numero uno. Non ce n'è per nessuno. La soluzione è sempre bella storia. Cosa, Domenico, come funziona? Lui adesso parte la sera, oggi non l'ho sentito stranamente, come va? Forse oggi ho il riposo. Niente, lui parte dalla da Predaneta, diciamo, da deposito, va a Urbia, quando noi lo sentiamo la sera, lui sta partendo, va a Urbia, e poi rientra. Io ci ho parlato anche mattina, ovvio, mi svegliavo prima, lì attraverso l'una, l'una e mezzo qua a Sassari, e io l'accompagno una prima che lui prenda a casa, capito? Una provare, diciamo, là, lì, dalla Pontanella, lo prendo, la lì, e l'accompagno fino a Sassari. Ma tutti i giorni la stessa strada, mamma mia, che brutto. E poi cosa fa durante la giornata? Riposa lui. Sì, poi riposa, dorme e torna la sera, via, torna a battagliare. Certo, ma con Juvaldo è sposata? Sì, è sposata, si ha tre figli pure. No, ma allora è giovane, quanti anni c'ha? Non riesco a capire, c'aveva 40, 50, quanti anni? Ma io penso quasi sulla cinquantina, diciamo. Ma non lo conosci allora lui fisicamente? Sì, lo conosco di persona. Ah no, io non lo conosco, ma la maggior parte di questo del baracchino io non li conosco, mi metto lì a te, a Claudio, a te, vabbè, non è che ci conosciamo bene, ma diciamo se vi vengo già ti saluto, ma la maggior parte non li conosco, mi conosco a Claudio bene, a Luca sì bene, ho conosciuto due volte che l'ho visto a Coso, a Capri 2, che è venuto in officina, l'ho conosciuto da volte, poi vabbè conoscevo a Natalino che non ho più sentito, a Gianni Doppio Room, che cavolo c'è da poi di quelli che conosciamo e frequenta, Giulio Dollaro lo conosco bene, siamo molto amici, Salvatore Maestrale molto amici, chi c'è proprio? Pier Paolo di Sugita l'ho conosciuto, l'ho visto passare in officina, poi ci ha salutato, ricordami tu, ma tutti quelli Benito, tutta quella greffa lì non li conosco. Così anche a Pompugno, lui mi conosce, magari se lo vedo lo conosco, lui mi conosce benissimo. E mi ha detto che io lo vedo molte volte, però non l'ho mai avuto detto, quando mi vede il Vema mi lo dico, perché non riesco a capire chi è, eppure c'era molto in frequenza. Sì. Pompugno è particolare. È bassottino, lui è capelli bianchi, dai. Pompugno e io con Pompugno ci conosciamo da dedicare una vita. Non una vita, da quando abitava a Ussi, capito? Che allora si modulava, c'era anche parecchia gente di Ussi, sia femmine che uomini, c'era un casino, Ussi modulava. Ora, quando abitavo io. E modulavo anch'io da lì, capito? E niente. A Pompugno ci conosciamo abbastanza bene, io a Puglia. Lui lavorava da Usaini in Italia. Sì, già me l'ha detto, però non ce l'ho presente, cioè mai se lo vedo dice, ah tu sì, però non riesco a capire chi sia. Poi aspetta che conosco, vabbè ormai non ci sono più, non stanno più entrando, c'era Franco California, Franco Delta 1, che li conosco di persona, poi chi c'è? Lasciami ricordare. Prendete quelli tutti quelli Gio Maria, con gli altri, con la Grefalettino, Tino Muscolo, tutta questa gente non la conosco. E a Mario conosci, l'amico di Gio Maria? A Mario Manse sì, l'ho conosciuto, poi chi c'è? E poi qualche nome, adesso non mi vengono. Mario Manse l'ho conosciuto anche di persona, ma già sapevo chi era, capito? Poi c'era Graziano, grazie, quello che facevamo per dire, non è più entrato, c'è fino a fatto. Ah, lo conoscevo Graziano, no, a Coso poi ho conosciuto, vabbè lo conoscevo da prima, ma l'ha ricordato lui che non ho più sentito Saverio. Il Saverio ho conosciuto di persona, Luca lo stesso, Claudio lo stesso di persona, Benito lo conosco di persona perché facevamo a metro uno attaccato all'altro alla casa di mio padre, mettevamo vicino a Salvatore Grande. Benito, poi c'è Salvatore Quarteto, lo stesso qua camionista. Io ne conosco anche. Gigi non lo conosci, io per dire non lo conosco Gigi. Gigi Vulcano, sì, l'ho conosciuto di persona. No, magari solo voi non lo conosco perché di realtà ne ho tanti di amici, però non lo conosco, almeno non credo di conoscerlo, e almeno da credo di no, poi magari solo voi può darsi. Lasciami dire. Poi vabbè, Sabato Mentale già l'hai conosciuto. Sì. Allora farebbe piacere conoscere a nel falegname. A Giulio. Giulio, deve essere una persona squisita. Oh, Giulio è un signore, veramente una persona in gamba, tanto di cappello, infatti mi fa sempre un piacere ascoltarlo, non mi si sa con nessuno, educato, troppo in gamba, infatti ci siamo conosciuti, cioè lui a me mi conosceva per questione di sport, io non lo conoscevo, poi dal momento che ci siamo conosciuti troppo in gamba, così con Salvatore Maestrale che io non conoscevo, siamo diventati, lui mi conosceva di nome, nel senso il lavoro mio conosceva, e Giulio conosceva mio padre, perché non dico che sia coetaneo mio padre, ma viene a prendere a 10 anni mio padre a lui, però hanno frequentato nella stessa centro studio dove sono nato molto mio padre, anche lui ha circolato lì. Capo. Lui conosce un altro dei punti, conosco di persone, che abbiamo pensato tante da un padre, e qualcuno se ne conosce di persone. Chi di punti ha detto? Mauro. No, non credo almeno. Oh, io dei punti conosco quasi tutti, se c'è da un po' di anni probabilmente lo conosco. Sì, lui lavora a Tizia Rubale. Guarda c'è là che lo conosco pure. Ok. Vediamo stato su 10, se è arrivato qualcuno. Meno male, già la sono in gamba, diciamo. Poi ovviamente ognuno c'ha i suoi problemi, le sue cose, giustamente allora. Non si faceva niente. Sì, ancora normale, ma io ho detto sempre che siamo tutti tranquilli e sereni, non succede nulla. C'era un periodo che eravamo tanti, si rideva a sera, poi è stato un periodo di guerre, di bifici, di cose, di invidie, eccetera, eccetera, e mi sa che sono rientrati un pochettino questi periodi. Sì. è così che conviene fare una bella ruota tranquilla, serena, pacifica, scambiare due parole, perché in una baracchina si entra solo per scambiare due parole, svagarsi perché dopo 8 ore di lavoro uno attacca la baracchina giusto per svagarsi un po', ecco, tutto lì, di cui si sentono i vestiti e cose, ma qualcuno uno chiude e non se ne parla più. E io lo so, anche io faccio così, appena sento un poco da volo, dico signore buonasera, tanto tutto, ho detto sempre, io sono uno di quelli pacifici fin quando non mi muori a giro tutto, perché quelli lì devi stare attento ai pacifici, non per dire, ne ho visto di tutti i colori, ho partecipato a cose di tutti i colori, per cui non è un segno di debolezza lasciar perdere, perché qualcuno magari è convinto, quando uno lascia perdere è debole, non è così, è più facile essere, cioè è più difficile essere lasciar perdere che essere prepotente e farti vedere un bel manno e poi non sei nessuno. Quello è vero, sono persone che vanno a vedere dietro un baracchino, dietro un filo, dove potete vai di persone e dici vai a cuccia, stai a cuccia di capito. Lo so, troppo facile così, ma ho visto di tutti i colori, io per questione di sport ho visto battaglie, no ciaffotti, battaglie, guerre, afferrature di tutti i generi, e ci sono stato anche in mezzo, per cui ne ho visto di tutti, non mi scandalizzo di niente, però è sempre meglio la sapere, possibilmente. Possibilmente conviene sempre evitare discussione, poi io dico una cosa, se tu hai qualcosa da una persona, sai di avere portato, vai la persona interessante, dice ascolta, tu mi hai fatto questo, tu vai, cosa stai lì a mettere portate, a farlo stupido, ecco. Non ha senso, capito? Lo so, infatti, ma a me mi puoi dire tutto, però cerco di andare d'accordo con tutti e poi non mi sono mai nascosto dietro il baracchino con le portanti, pure mi ha detto il baffa. Mi posso aver fatto lo scherzo a te, ti ricordi la volta fendi lo spagnolo, massimo così, ma metterti la portante quando stai parlando è vigliaccheria secondo me. Sì, è vigliaccheria sì, a me, anche se mi hanno accusato che qualche volta sono stato io a mettere le portante, che pure a me ritirarsi le portante, cosa mi interessa molto non mettere le portante a nessuno, se vuoi parlare parla, se non mi vuoi ascoltare non ascoltare, non mi interessa niente. Già lo so, ma infatti la sento anche io questa storia. A parte me ne accorgo subito se sei tu o se siete Claudio, almeno quando siete qua, poi se vi mettete in strada, non lo so. Quando c'erano queste discussioni qualcuno ha detto cose, dice noi sono vicini a te, gli ha detto no, non ti preoccupare che non sono loro. Non si è fatto nome, però era indirizzato a te e a Claudio probabilmente. Era vicino a te, non sono loro, perché i segnali loro sono molto ma molto più furti. È più probabile che magari sia qualcuno di qualche paese che attacca qualche linearone o cosa del genere. Infatti. Non serve mai giudicare le persone se tu non le conosci. Poi sapendo bene tu conosci il mio segnale, conosci il segnale Claudio, conosci i segnali furti. Cioè, ti sembra un po' assurdo, no? Che fossi io che mettevo la portante. Ma sta scherzando, non esiste. A parte appena schiacci senza parlare, tu appena schiacci, il segnale tuo è inconfondibile. Così è quello di Claudio. E poi se schiacciate voi non parla più nessuno, se schiacciate voi due. Può parlare almeno io non sento più a nessuno se parlate voi. Per cui quando c'era questa portante che diceva, no? Io allora li ascoltavo, quelli della zona bassa, diciamo, più lontani. Per cui se schiacci tu io non sento a nessuno, l'unico che ti può passare è Claudio, è Pomponio, è Buh. Tutti gli altri nessuno ti può passare. Infatti. Capito, la stessa cosa quando parli tu, vuole segnare basso e me ne schiacci, che ecco tutto lì. Io già penso che mi conosci, non penso che mi dai tutti tipo che si metta a giocare con questa cosa. No, vabbè, assolutamente no. Non mi è mai passato per la testa 20 anni fa questa parte, figurati che se mi metto lì a giocare a mettere portate, come una potenuta, vabbè, a me mio entro, discuto, faccio due chiacchiere, ma poi guarda, faccio quello di e boom, non è che sono lì ascoltare o meno, ma fai un cavolo, capito? Allora, un paio di volte mi è successo che me ne accorgevo che stavo provando baracchini, per dire quando stai facendo le prove, per dire, il microfono mandi portante e non te ne sei accorto, mi è capitato anche col K, stavo facendo delle prove e mi sei inserito il lock. C'era il lock inserito, quando ho attaccato il microfono mi sono accorto che c'era il lock inserito, per cui c'era la portante, io non lo sapevo, e per qualche secondo ho rimasto la portante inserita, poi subito sono intervenuto, ho detto scusate, non mi sono accorto, però mica lo faccio con malizia. infatti, ma se capita, non è che uno stia facendo per noi, se magari è capitato, poi uno mi si scusa ancora, è una persona molto tocco, è piacevole, capito? Non vedo un motivo, se capita, capita, buonanotte, non è che è la fine del mondo. Sì, ma quella idea ti rubate proprio con scrupolo, se vogliamo andare a musica, io quello che qua posso dire che capita il disturbo della portata, ma quelli che mi danno più fastidio di tutti sono quelli che mandano musica, che sta per dire 5 minuti attaccata alla portante con la musica sotto, quello. Perché uno dice ti dà il disturbo, tu due colpi di portante, quando stai parlando ti sovramodula. Male però, quello che proprio io ho sempre odiato è mettere musica sul baracchino. Mi è capitato a me qualche mattina sempre di sentire questo tipo ogni mattina a casa. Mettevo musica, cioè, ma dice, ma vai scemo, pazzo, cosa? Mettevo, si alzava buoni buoni 5 minuti, 10 minuti con lo stereo acceso e la portante fissa. Questo è il macco. Sì, infatti non riesco a capire, quello è ancora peggio secondo me, è a colpa della musica. Mettevo molta domenica, anche a me mi è capitato di sentire musica sassarese o musica diversa di Vasco Rossi o così così, la gente, ma a colpa di tanto se ti perde la musica, io non ho bisogno di ascoltarla. Sì, infatti, cioè, sai, poi sanno che il 5 è già un canale di chiamata, cosa stai lì sul 5 a mettere musica? Cioè la gente passa da mettere. Sì, no, ma poi quella cosa, infatti, che mi dispiace molte volte, capitava noi di stare sul 5 per dire non c'era nessuno al momento e poi sentivi qualche camionista, cosa del genere, che stava rientrando e diceva io spostiamoci subito, lasciamo lavorare, che questo è il canale loro, diciamo, dove ci sono normalmente loro. Visto che ce ne sono 40 canali, non mi sembra giusto entrare e intrometterci di lì. Può capitare qualche domenica, anche a me, domenica mattina, che non c'è nessuno, di andare sul 5, ma molte volte tu viaggio a Maria, mi è capitato, e ad altre persone, parlo diverso tempo fa. Domenica è un giorno festivo, però durante la settimana se stanno lavorando, a parte non ci sono mai durante l'ora di lavoro, però può capitare qualche sera magari che se entro presto, verso le 7, che c'è ancora qualcuno che sta rientrando, per cui è bene lasciarglielo libero. Di solito si mettono lì a chiacchierare sul 5, ma anche io sono del padre che il 5 è un canale di chiamata e giustamente chi lavora, giustamente tipo camionisti devono averlo un po' libero, anche se il discorso è che ci sono 40 canali, anche loro già ho visto che si spostano, se ne vanno sul 16, sull'11, sul 10, sul canale alti. Va bene, dai. Però la maggior parte lo usano per lavoro, tutto lì. La maggior parte tu dici solo su 5 la mattina, capito? Ma come devi dare un po' di compagnia col baracchino? Brutto sarebbe stato come per dire, tanti anni fa, che i baracchini ce n'erano pochissimi e i camionisti erano sempre la stessa monotonia, la stessa tamera, così accenno, non dico che parli sempre, però magari ti senti qualcuno, qualche battuta, qualche osservazione, ti fa anche compagnia, passa più in fretta il tempo, ti dà meno problemi di attenzione, nel senso ti tiene più sveglio, dai. Questo è domenico. Buonasera. E come mai a questo da domenica? Ciao, buonasera. Ma dove sei adesso, dov'è? Qua, ho passato le cimiterie in questo momento. E quindi ci hai sentito, ci stavi sentendo? Aspetta un attimo, c'è qualcuno che ha parlato, avanti, chi era? Caccio. Sì. No, che entra, non si sa mai cogare. Comunque ti rilascio a Falchetto, dov'è? Papà, ciao, dove mi hai sentito, ben ascoltato. Sì, noi stavamo parlando di più di me, non è? Adesso, questo attimino qua è 31 e non è neanche risposto, va bene, lasciamo perdere. Saluto l'invito di domenica, allora, a prendere bombarde. Cappa, ritardi oggi, Problemi che la di sera ci avevano, non potevano trasferire i da parte Roberto. E io. E stavo parlando anche di te, un attimo mi è venuto il discorso di te, il tragitto tuo, tutti i giorni, la solita, il solito durante, non ti invidio come hai fatto tre volte, parti a una certa ora, più o meno ho visto, verso le 8, rientri, quindi verso l'una e mezza di notte, così. La cosa che io odio, già non mi piace viaggiare in macchina, fare lunghi tragitti, perché vabbè bisogna abituarsi, naturalmente tu sarai abituato, già di notte la cosa più fastidiosa secondo me, devi avere la massima attenzione, basta un attimino di distrazione che anche ci si fuori strada, proprio non hai il campo visivo lungo come lo puoi avere di giorno, è molto molto rischioso. Se ti piace sono contento anche per te, brutto è quando lo devi fare a malavoglia perché non c'è nient'altro. Comunque questo rumore di sottofondo mi sembra di riconoscerlo, avanti chi era? Sento un colpo, Luca tu sì? Sì, bianco, ma riesco a entrare, no perché stavo fuori dal microfono, è entrato il tassino, vedi, senti, lo senti. Ehi, sei inconfondibile comunque. Il rumore è tuo, Luca. C'è Domenico, non so se lo ascolti, ti rilancio a lui. Avanti, Domenico, per Luca. Domenico, cuzzone. Non lo senti, Domenico. Non lo senti, Luca? No. Senti dove, vabbè, quando ha detto... Non lo so dove. Non lo so, chi è questo? È stato detto Domenico Cuzzone. Tutte le prossime. Fate, vabbè. E anche io te lo No, non mi piacciono certe situazioni, meglio spegnere, vabbè, anche se devo far cosa, è l'occasione è buona. Comunque, saluto a tutti, ciao Claudio, già ci avremo modo di sentirci, idem per Falchetto, Luca se ci sei e soprattutto a Domenico, buon viaggio, buon tutto e buon lavoro, i futtidini da me, già non succede niente, dai, purtroppo ci sono anche queste persone. Ciao ciao Domenico. Sto chiudendo anche io, dai, se volete proseguire c'è Claudio, forse in QRX, c'è Falchetto, dai, io adesso vado a mangiarmi qualche cosa e poi probabilmente chiudo, cioè vabbè, sto chiudendo del tutto. Ciao ciao Gianni, magari ci sentiamo, cioè, ci sentiamo anche con te in altre situazioni. Ciao ciao di nuovo a tutti, QRT da parte mia. Ho fatto segno, non mi potevo lamentare, Hai capito, però diciamo nei, anche questi delle aziende proprio regionali, non è nome che pigliano un granché, andiamo con 1300 euro, non penso che prenderò di più. Perché diciamo quello, io qui domenica guadagno una fetta più grande, però io diciamo da lì poi ne devo fare le spese, perché io mi verso i contributi, mi pago le tasse, capito? Quindi però diciamo un 1500 mi rimane domenica. Io domenica non mi sono imbarcato, faccio anche l'attestato di un'unità professionale nazionale e internazionale di trasporto passeggeri, e mio figlio mi stava sempre convecchiando a pigliare un pullman. Ho detto se il pullman lo posso comprare se mi danno una linea per fare gite e roba del genere, non mi imbarco con me perché è un rischio grosso, è animato col camion, hai capito? No. Ruotate di testa così non è fatto, perché so cosa vado incontro, il mezzo se non lavoro diventa passivo. Infatti non conviene assolutamente, bisogna stare con i piedi per terra, perché ripeto, sono momenti brutti di crisi dappertutto e in tutti i settori, non si sblocca e li vediamo, capito, l'evidenza, qui hanno chiuso anche il cementificio, quindi prima il camion un po' lavoravano, hai capito, anche perché c'è il cementificio, tra le cose, è bloccato tutto, come è bloccato tutto e non so cosa, diciamo, quando si riprenderà l'economia, capito, non lo so perché guarda, stiamo andando proprio di male in peggio, dicevo, 2010 cambia e invece 2010 se ne sta andando e non ha cambiato per niente. Infatti no, prima c'era il buon perché c'erano Porto Torre che aveva le sue, diciamo, maestranze e tutta questa, capito, e lavoravano, hai capito, adesso proprio stiamo andando la gente, io secondo me penso che ritorni a coltivare la terra, sicuramente ritornerà a coltivare la terra, perché diversamente non si può vivere. E infatti, mi sto perdendo con me comunque, mi sta arrivando già a Cassino e non riesco, diciamo, a percepire qualche, diciamo, parola nel passaggio. E ti super saluto, diciamo, come, e domani sera senz'altro entrerò, diciamo, a farti un altro po' di compagnia. Per il momento vorrei modulare ancora, però ti sto perdendo. Ritiro di super salutato da Capri 2, Cucchia Calimuros e alle prossime. Di nuovo domenica e buon viaggio. Ciao Domenico, buona cucina greca, ciao ciao. Luca, ci sei in ascolto? Luca? Luca? Non mi si vedo sempre per il tuo lato. Luca? Ciao, ma molti non mettono la Nutella, mettono anche un cioccolato. Il cioccolato l'ha messo sopra. Però è sempre un cioccolato questo che pone. No, è sbagliato, si fa con la Nutella e i latti. Il cioccolato sopra. Molti non ne mettono Nutella. Non è marocchino, infatti. Sarebbe mettono qualcosa somigliante. E ci sono i metodi per farlo, dai. I bar, i viti sanno fare queste cose, i bar di cavolo, se no che non capiscono nulla. Beh, è un bar serio, oppure che non si... anche molte volte che se non è un bar serio, però è un buon barista. Già le sanno fare con le cose. Ma siamo un barista, sì. Ma dove andiamo noi? Chi saprà davvero prendere le cose? Ega. Non lo ricordo più, dove siamo andati una volta. Ah, ho capito. Gappa. Allora, quello lì è bravo. Non si può dire niente. E quello l'ha lavorato un bel di anni pure. Ha lavorato in uno dei bar al Toccato. quindi anche lavorando a conto suo alla turbina e le cose le sa fare. Io dopo di aver lavorato tanti anni a Bariglia a Roma, a Rubiglia, che le sa fare tutto. Lui è un unico pecco, diciamo, un pochettino lento. Lento? Un pochettino lento, però le cose le fa bene. Ora te lo conosce l'assicuratore mio, quando risponde dice pronto? Anche lento. Sì, tu sei pacifico mio, tu, quelli che ti fanno venire nervoso, a me mi fanno venire nervoso, la gente così pacifica. Lo risponde pronto? Ma poi ti zecca la cosa piano piano, e non si prende l'anima. E molti sono così, eh. Lo so, ma non avere solo, la possono avere da pitturare, ma non te la scarpa. Sì, vero. Suola. Scarpa, ma cosa stai dicendo? Ma stavo sbagliando. Perché ho fatto un lavoro, ho fatto un giubbotto, un amico. Un giubbotto della moto. Dainese, che c'aveva tutti i bordi in pelle, tutti scoloristi. Benessi tutti. No, non li ho pitturati proprio. Cosa è trattato? Fatto con la vernice per peli, c'era una pittura per peli proprio. Ho preso un pennellino di Marco, di quello degli acquerelli, l'ho fatto perfetto, proprio bene, bene, bene, cazzo di poco di biazzuto. Ah, usato quel lucido che usano, che è quello che si usa per quelle cose lì. E c'è la lava, ne esce. No, no, non esce. Nero d'inferno si chiama. Quello lì è fatto apposta per le pelli nere. È buono. Ho fatto tutti i bordi delle maniche, i bordi che c'ha giù, tutti perfetti, c'erano i bottoni li ho spinti di modo che si rialzavano, non li pitturavo, ho fatto bene bene. Scarpa. Mi sono capita dove? Io la sapenza già, che ci vede. Infatti mi ha detto, sembra nuovo, bello, cazzo, complimenti, hai fatto benissimo, mi sarebbe fatto veramente contento, perché mi ha detto, ira, si durampo, non mi si stanno scolorendo tutte le cose, mi pare meno bisogno di nuovo, una cosa nuova, guarda a me che c'ho la pittura a casa che te lo faccio. Tu guarda a me. Sono preoccupato perché Manuel ancora non è rientrata, lui. Ma chi è preoccupato? Marco. Sì, già rientra. È giù, cos'è? È giù, non è preciso la fortuna. E allora? Io si preoccupa già subito, se non la vedi a casa chi sura, vedi a dirmelo. Ha paura, non ho problema. Ma lui se non c'è Manuela a dormire, oh. Corica anche vicino a me, però se ha la paranoia che non c'è, allora capite. Già lo so. Che ore sono? 10:00. Un pare. E c'era stato piovendo, magari erano in moto e si devono riparare quando fa zero. Ma adesso ha smesso. Smesso? Vabbè. E c'è tutta la sera, se non ha acceso sarà andata a prendermi la macchina. Da dentro ci sono la macchina, mi ha fatto triccia triccia. Che succede? Ah, hai barriato proprio mentre era andente. E poi se non fai veloce, guai. No, veloce sì, mi sono messo a correre. Ma mi ha abitato in pieno proprio, nel tragitto, tra ci sono la macchina, mi ha abitato in pieno. Cosa c'è, figurina? Tutta bella, Che c'è? Già, ma c'è dentro un campanellino che si sta in occhio. Fa gatto. C'è adesso? C'è adesso? A voi di che c'è qua? Quanto sei profumata? Ma profumata? Perché si è profumato lo shampoo? Beh, è buono, ma... polvorano quello che ho mandato a me, profumo da lissimo. Anche questo è molto buono. Ho preso questo. Cosa? Ciao. Cosa hai comprato? Ho comprato vicino a noi, cioè con i due animali. Ah, Tu dove lo prendi? No, c'è un po'. Ho preso un po' il dottore, c'è il piccolo dottor Rittano. Ciao. Lo compro lì. E beh, di chi vi... non è buono. Che placco è? Grande. Vale anche. E lo chiusi tu? Francese, sì, sì. No, quello tuo. Io l'ho chiesto grande, ma... a me mi ha dato tre picchi. Ciao. Non so che marca è il capotto, noi siamo noi. È un flaccone grande, uso professionale, ed è giallino, Mai fatto. Zappa, è buono però. Lo usiamo a cogliere la frischi sul zappa. Pizza giù. Figlia. Mi causava ancora la fischi. Bisogna far passare il mio omicidiale. Certo, ma non è un granché. Poi abbiamo preso noi che c'è il buono. A te che leggo che marca è. Ciao. Sì. Chiama Oema. Oema. Oema. Oema. No, lui si chiama Tucano, c'era il Tucano disegnato. Tanco delicato. Sì. No, questo si chiama Oelmo. No, è un buon prodotto, ti dico. Cioè, prodotto professionale. Lui ci scrive. E beh, è un prodotto che usano loro, dai, perché loro lavano anche i cani e i gatti. Ciao. E io? Ti devo dire da buonanotte. Ma ti sentivo parlare altro. Ma ti ho detto, infatti cosa ti ho detto? Ti ho detto che è un prodotto professionale. Sì, sì, ti ho sentito fuori. Capito. E vabbè. La prendi con il negozio dove gli hanno tagliato il palace? Ciao. Lì probabilmente li usa anche per fargli lo shampoo. E le usa lì per lavare i cani e i gatti. Che aspetta, adesso gli è ricresciuto bene, bene, bene adesso. Il pelos. Ha fatto veramente un bel lavoro, gli ha fatto, non ha preso molto. Mi ha fatto un bel lavoro, dimmi, piccolino, mi ero ministrato, ma va bene. Poi soprattutto ha calcolato bene il periodo del freddo, perché le è cresciuto proprio giusto giusto. Sì, no, no, se tu la vedi è perfetta. Tutto quanto le è cresciuto qui. Va, adesso ogni tanto il pettinino, la solata. Sta prendendo ancora per il pelocene, se il mio ha smesso. No, no, il nostro non ne ha mai perso. No, il mio li cambia. Per forza deve prendere, cambiare il pelo. Estate, lui si cambia il pelo. Sì, qualcosa così sta a perdere, ma non tantissimo. Non ti ti tanto. Ti acciocca brutto. No. No, loro, lui no. Né lui né lei, non tanto. Sì, un po' sì, ma non molto. Un po' sì. E devi scendere qua. Ti avrei dato un passaggio io. Ti avrei dato un passaggio, a me è una iata. A tutti e due. La iata può andare in grembo, siamo in molto rigidi della macchina. Che non è sporcaccio. E ma ti lasciare un pelo so. Ne lascia per. Una volta è venuta una rappresentante a casa, c'era sul tutti sulla siglia, l'abbiamo fatta accomodare, era in abito. Si è alzata e ci ha messo il pelo attaccato alla gonna. salvo, poteva dirmelo, così mi ha rovinato il corso. Signora, qua viviamo col gatto. Ci sporchiamo, ci puliamo, se vuole la spazzola per pulire i pelucchi. No, me ne vado, arrivederci. Ah, se lei si vuole vedere qualche cosa, deve sapere che qua c'è un gatto. Quindi se si vuole sedersi, se no sta in piedi. Da rovinare, ma guardi, intende, fate andare una polverata e via. Ehi, ci vuole uno straccio umido, dai. Gappa, ma non penso che il gatto ti rovini la roba, ma manco per, ma manco pensato. Ehi, non è che te la rovina, ma te la sporca col pelo, va. Arabi. Ah, questa posta c'è uno straccio umido, non esce tutto. Allora. Finta le macchine che buttano in capo, non dice. Vabbè, normale. Ma cosa, no? Poi, basta passare a pulire due o due del mese. È solo un pelo, non è niente di particolare. Non è nulla che macchine. Poi noi abbiamo la spazzola per passare dove ci si attacca l'impiglio. Sì, è basissimo, via. Ci attaccano la spazzola e rimangono lì. E poi acqua. Non veste problema. Ai, cosa? Siete tutti bravi come interesse. Abbiamo voluto alcuni cristiani bravi come traiata. Se poi va a fare un giro di quello di mia sorella, perché come mettervi il braccio giù dal divano, che faceva 1, 2, 3, ta-ta-ta-ta, ti gravava in fretta e se ne scappa. Ah, ah. C'era un lione. Quello che c'era prima di sì o no? Lillo quello che sì, aveva prima che poi le morte di malattia. Però lì ti sedevi nel divano, mettevi il braccio sul coso, sul, come si chiama, braccio, e ti graffiava. Un leone. Vediamo uno, due, tre, cazzo, tutti i graffi, si dà ti fu a graffio. È come il cristiano, il vero umano, il vero buono. Ma qual era il territorio ad aprire? Non faccia vedere la scelta. La padrona rispettava tutto quello che diceva, faceva. No, tanto il contrario, mia sorella aveva tutte le gambe graffiate, quando passava lui si nascondeva, tra le graffiamo anche a lui. No, quello non glielo ho permesso, non glielo avrei permesso. Te le anche graffiate, va bene. Il gatto al padrone, devo dirlo. E gli ha lavorato tutti i divani, e l'ha fatti tutti a brandire. E beh, cosa dei grappi, non c'è andata. Oh, e l'ha comprato, ma con lo toccava. Ci ha dovuto rifare la tappezzeria tutti i divani. Gatto. No, quello non gliel'ha per permesso. Ma c'è anche il coso, c'è che si mette sopra, fa farla andare. Repellente si chiama. Scappa, io ce l'ho la puttina. No, io non ne metto, non ne ho mai messo, ma l'ho educato in una maniera tale che rispetta tutto. Ma neanche io ce l'ho messo dentro il corpo. No, non ne hanno bisogno, cosa glielo metto a fare se lo conoscono già? La Frischi si aveva spedito i punti e mi era arrivata la casetta. Si vede. Ho detto, loro lo conoscono già, soprattutto la Ceres, quando gliel'ho portato. Già dal primo giorno è andata giù questa graffia. Ah, vero? E beh, perché lo conosceva. Pure ha imparato questo. E beh, come federato ci manca l'altro. Già, lo credo. Però li affila le unghie. Già lo so. L'ho preso con l'incartone. Tra. Appagato. Perché? Perché ne avevamo uno di quelli normali, e di quelli che costano anche. Come fare un capo? Ho fatto tipo una iata. Cazzo l'udinia. Cosa? Iaia. Appagato. Antu, oh, mi sa che è speso, me ne vado tutto a dormire. ti auguro buona notte e un tabacco per domani. Auguri per stamane, ciao ciao. Ciao, dai. Ci sentiamo. Ciao.